la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Una lampada negli occhi e quell'uomo che chiedeva per provar la mia innocenza. Passa un'auto nella strada, nelle case c'è già vita, forse al bar trova un amico. No, non gioco stamattina, non ho voglia di far niente. Non ritorno dal lavoro, sono due notti di tormento. Ma tu cosa hai capito? Perché pallido il mio viso? Non andare via, ti prego, io mi sento di morire. La la la la la la la. La mia innocenza sulla mia coscienza e nei suoi occhi c'era ancora l'amore, l'amore di notte in un casolare. Tu non lo sai, ero un pescatore di un paese di sole che lei da lontano teneva stretto in un palmo di mano. Il suo corpo sui sassi in un'ora d'aprile, poi la barca da sole, le reti strappate. E dove più quella chiesa sul mare, il vento azzurro, l'acqua verde del porto, ed i coralli che lei lavorava, i colori del mandorlo in primavera, e quel faro che dava poca luce la sera. La porta mi schiusa per lui che veniva, dimenticandoti che io aspettavo le prime luci per ritrovarti. Io che ho avuto il tuo corpo per molte ore, non ti ho detto ti voglio solo a parole, e credevo di essere il tuo signore. Ora un abito da sposa sta volando via nel vento. Io ti guardo, ma sono solo, tanto solo in un momento. Dov'era lei a quell'ora? Dove ero io a quell'ora? Ma lei s'è persa, lei.